Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Eccoci, ci siamo, sono le 11.07, pianin pianino siamo arrivati a venerdì con Peter Bescapè in regia alla parte tecnica e Laura Vanossi in redazione. Siamo pronti per partire, quindi i titoli del nostro sommario. Passare molte ore in macchina e rimanere in forma. Missione possibile. Filtro d'amore, quando Cupido chiede aiuto alla chimica. Sei stressato? Lavora a maglia. Noi siamo qui comodamente seduti, qua davanti a me, come sempre, al venerdì, il dottor Franco Confalonieri, medico sportivo, responsabile del centro sportivo DDS di Settimo Milanese. Buongiorno. Buongiorno, ben ritrovati tutti. Con tutte queste S alla fine imparerò a dirle. Sì, ce la faremo. Allora, noi oggi siamo comodamente sedute e pensiamo a voi che siete in macchina per lavoro, per lunghi spostamenti. Come state? Allora, se vi sentite stanchi, affaticati, se la macchina entra prepotentemente nella vostra vita e volete in qualche modo riuscire a mantenervi in forma, restare in forma, chiamateci 824 0024, questo è il nostro numero verde, lo sapete, ma vi ricordo anche il numero per inviarci i vostri messaggi: 349 238 6666. Allora, dottor Confalonieri, lei è venuto in macchina o in metro? Io sono venuto in macchina, che vengo da fuori Milano e quindi vengo normalmente in macchina. Io sono un grande utilizzatore della macchina, faccio almeno una volta alla settimana 700-800 km in un'unica giornata, perché mi sposto in Italia in macchina e tutti i giorni vado avanti e indietro dal lavoro in macchina. Quindi oggi parlo con competenza perlomeno dalla parte di chi sta in macchina, poi speriamo di essere competenti anche da un punto di vista dei consigli, certo, e dei suggerimenti. Ma certo, vuole farsi fare i complimenti. Tra l'altro proprio ieri noi parlavamo di rabbia, lei ci ha ascoltato ieri? Sì. Ah, era in macchina? Ero in macchina e vi ascoltavo. E la macchina è veramente un posto, il traffico, in cui anche i più miti si scatenano. Ma di questo noi abbiamo già parlato ieri, mi spiace. Non parleremo più di rabbia, naturalmente, però parleremo di daremo dei consigli, li darà il dottor Confalonieri, anche altri esperti, per mantenersi in forma nonostante ore e ore passate in macchina. Ma io direi che possiamo partire. Allora, io ho chiesto aiuto a Roberto Rasia dal Polo, amico conduttore di Quattro Ruote Dintorni, non da tutti i sabati, quindi anche domani alle 14, perché io vorrei iniziare a partirei con lui. Ciao Roberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a te, agli ascoltatori e una strizzata d'occhio all'amico Franco. Ciao Franco. Ciao. Senti Roberto, allora guidaci tu, è proprio il caso di dirlo, da dove partiamo per evitare le scene alla Fantozzi? Saliamo in macchina. Sì, la prima cosa da fare è regolare l'abitacolo su di noi. Il dottor Confalonieri credo che potrà confermare che non c'è cosa peggiore per il nostro apparato scheletrico muscolare che rimanere seduto o sdraiato nella stessa posizione per tanto tempo, no? Perché questo è ovviamente innaturale e la gravità, ahimè, in questo caso non c'è d'aiuto, schiaccia alcune parti. L'abitacolo non è ovviamente un ambiente naturale, però se noi iniziamo a regolarlo sulla lunghezza delle nostre gambe, sulla lunghezza delle nostre braccia, già possiamo avvicinarci ad un comfort, chiamiamolo così, abbastanza efficace. Insomma, lo addomestichiamo, Roby. Infatti, l'importante è che non sia il nostro corpo ad adattarsi all'abitacolo, ma viceversa per quanto si possa. Per questo che noi facciamo sempre un plauso a quelle auto che hanno i sedili molto regolabili, oppure quei volanti che hanno la regolazione non solo in altezza, ma anche in profondità. Ecco, usatele. Molta gente si siede nell'abitacolo e non lo regola mai. Io questo è un comportamento che purtroppo noto spesso. L'unica cattiva notizia è che non c'è una posizione di guida comoda, bisogna non sedersi comodamente, bisogna sedersi in maniera sicura, questo è quello che ti dicono come prima cosa ai corsi di guida, però iniziamo con l'abitacolo, ci sediamo, prima di allacciare la cintura di sicurezza, iniziamo a sentire se il pedale della frizione, qualora la nostra auto avesse il cambio, riesce ad essere schiacciato dalla nostra gamba sinistra fino in fondo senza con questo muovere il nostro bacino, perché pensate quante volte schiacciamo la frizione. Certo, no? Quindi questo, scusa Roberto, questo è un po' il trucco per capire se la nostra la poltrona è alla distanza giusta? Perfetto, questo è per quanto riguarda il bacino, attenzione, sì, c'è anche il torace, eh? Quindi con la frizione è già una prima malizia che si può usare. Per il torace che cosa succede? C'è un'altra regolazione del sedile che ci consente di arrivare al volante. Una volta, per esempio, mio padre, no, guidava con tutte le braccia stese, forse vedete alle volte alcune persone che hanno imparato negli anni 60 e 70. Anche il dottor Confalonieri fa così. Posso... Ai, Franco è pericolosissimo, lo diciamo a chi ci ascolta in auto in questo momento. E neanche troppo appiccicati al volante, che diventa pericoloso in caso di scoppio di airbag. Qual è la distanza giusta? Esiste ed è facilmente regolabile, la possono provare anche coloro che sono al volante fermi magari, non andando. Bisogna allungare il braccio destro sulla ghiera alta del volante e deve arrivarci il polso, quindi non le dita, il polso, bisogna avere tutta la mano in più. Magnifico, questo perché... mi piacciono questi trucchetti qua, già la frizione mi piace, ma il polso io lo proverò. Sai perché, Nicoletta? Questo abbinato alle mani sul volante nella posizione giusta, quindi la sinistra a ore 9, la destra alle ore 3, quindi 9 e un quarto si chiama, no? La posizione giusta, fa sì che nel caso tu avessi un bambino, un pallone, un ostacolo improvviso sulla destra, se tu hai le mani giuste, la distanza giusta sul volante, puoi scartarlo evitandolo senza sollevare le spalle dal sedile. Questa è la posizione corretta. Terza e ultima cosa, allacciare la cintura di sicurezza nella maniera corretta. Molti se l'allacciano e ciao. No, la cintura di sicurezza deve andare sotto la linea del bacino per evitare la sua rottura durante gli incidenti. Io dico che sono tre cose facili, bisogna impiegare un minuto in più, però ragazzi la sicurezza... Senti Roberto, tanto io domani sono qui, tu anche, ci incrociamo e poi sali con me sulla mia pandina. Ma il dottor Confalo... Dai, facciamo un esame, io mi sono presa gli appunti, adesso poi quando torno a casa ripeto. Intanto il dottor Confalonieri era molto incuriosito da che cosa? No, beh, sulle 9 e un quarto lei c'era. Sulle 9 e un quarto ci siamo. Diciamo che c'è questa necessità di mediare sicurezza e comodità, che indubbiamente è complesso, soprattutto perché fa viaggi molto lunghi e qualche volta trascura la sicurezza in funzione della comodità. E quindi credo che gli appunti di Roberto siano stati fondamentali. Io volevo aggiungere una cosa che spesso è trascurata, e cioè la corretta regolazione degli specchietti, sia quelli esterni che quello interno, perché i movimenti che ci costringiamo a fare per controllare gli specchietti sono fondamentali per il benessere a livello della cervicale, che è un altro dei punti critici per chi guida a lungo. Quindi uno specchietto ben posizionato consente di limitare al minimo questo tipo di movimenti, che poi nell'arco di un viaggio lungo diventano ripetuti, e ci consente anche una corretta posizione di guida. Non so se Roberto è d'accordo. Sono davvero d'accordo, lo si vede al semaforo quando c'è gente che si sporge quasi dal sedile di 20-30 centimetri per guardare uno specchietto, comportamento pericolosissimo. Deve essere l'abitacolo ad adattarsi a noi, non viceversa. Nicoletta, se tu sei d'accordo, affrontiamo insieme con te e con il dottor Confalonieri anche l'altro grande tema, ma sarà più lui a darci consigli, cioè i viaggi lunghi. Io ho dato la posizione per quando si è fermi e per quando si fanno pochi chilometri. Se dobbiamo andare da Milano a Roma 5 ore, 6 ore, è importante fermarsi prima che la schiena faccia male. Noi naturalmente prevenire è meglio che curare. Un attimo prima, anzi qualche minuto prima, dobbiamo, io credo, imparare a conoscere bene i segnali che il nostro corpo ci manda. Parleremo dell'importanza delle pause, ma noi oggi, caro Roberto, vorremmo chiedere proprio ai nostri ascoltatori che passano tante ore in macchina di suggerirci anche i loro trucchi, di darci i loro consigli per di raccontarci come si mantengono in forma, e per quelli che non ce la fanno naturalmente avremo i consigli del dottor Franco Confalonieri. Roberto, noi ci vediamo domani. Grazie a tutti, a prestissimo e buona radio. Grazie. Allora, dottor Confalonieri, quante cose abbiamo imparato dal nostro Roberto Rasia dal Polo, ma tocca a noi adesso, dobbiamo giocarcela io e lei, ai nostri ascoltatori dell'800-24-0024, quindi parleremo dei problemi legati alle ore passate in macchina, oppure ci concentreremo di più sulla prevenzione e sui suggerimenti di benessere? Ma vorremmo concentrarci sui suggerimenti di benessere. La domanda che faccio agli ascoltatori è molto diretta: siete riusciti a conciliare una lunga permanenza

Professor Remuzzi, la morale di questa storia? Ma la morale di questa storia è no, non c'è la pillola dell'amore, non c'è lo spray dell'amore ancora. Conosciamo però molto di più di come funziona il nostro cervello, conosciamo molto di più di come sono regolate le nostre emozioni, e conoscere è sempre molto bello. Professor Remuzzi, mi è venuta un'idea. Mi piacerebbe sapere dai nostri ascoltatori se pensano che dietro l'amore ci sia chimica, sia questione di chimica o invece sia questione di cuore. Potete mandarmi le vostre opinioni, le vostre mail, anche le vostre storie d'amore, perché no, a esserebenessere@radio24.it. Professor Remuzzi, buona giornata, buongiorno e buon amore. Grazie a voi, buona giornata. Pronto soccorso. Noi torniamo al tema del giorno, anche se molti ascoltatori mi scrivono: voglio la formula. Ad esempio Cesare mi scrive per Nicole Kidman, per mia moglie ci scrive un altro ascoltatore, per un ragazzo che amo segretamente da più di un anno. Insomma, sarebbe proprio un boom, eh? Vabbè. Altro che un boom. Ma noi torniamo in macchina. No, non voglio sentire. Torniamo in macchina e parliamo, direi, di quei problemi che si presentano e possiamo e dobbiamo prevenire. Dottor Confalonieri. Esatto, parliamo di prevenzione. Non pensi all'amore, pensi a noi. No, io dicevo semplicemente che è dura passare dall'amore e dai filtri d'amore all'auto e dai dolori dell'auto. È un compito ingrato. Sì. Solo questo volevo però sottolineare. Però si può andare in macchina a trovare l'amorosa. Assolutamente. Affrontare sì. Viaggi, chilometri e chilometri per l'amore. Arrivando in piena forma. Arrivando. E quindi prevenendo quelle che sono le tre grandi problemi che noi possiamo avere da un utilizzo prolungato della macchina, e sono innanzitutto i dolori, quindi prevenzione del dolore, accennava a questo anche Roberto Rasia prima, interrompendo il viaggio quando cominciamo ad avvertire che il dolore sta arrivando, camminando un po', fermandoci, cambiando rapidamente posizione. Poi la prevenzione dell'appetito, perché si pensa spesso alle problematiche del mangiare durante un viaggio in auto e si dice evitiamo di mangiare troppo per non avere poi sonno, rallentamento dei riflessi o quant'altro, ma un problema analogo è non mangiare, perché il calo della glicemia porta a una riduzione della concentrazione e irritabilità e quindi riduce la qualità del viaggio. Terzo punto, la prevenzione del sonno, questo è di fondamentale importanza e io da questo punto di vista consiglio tutti di anticipare il sonno attraverso dei brevissimi microsonni, 3-4 minuti in cui stacchiamo e siamo poi pronti a ricominciare. Questo è un problema ad esempio di Maria Rosa e di altri 3 o 4 ascoltatori che non si firmano, quindi io cito Maria Rosa. Cosa posso fare per evitare di avere sonno in macchina? Quindi le indicazioni, vuole aggiungere qualcosa in più? Beh, è ovvio evitare da un lato di non mangiare, dall'altro di mangiare troppo, evitare magari di programmare un viaggio lungo quando si sa che la notte precedente magari abbiamo dormito un po' meno perché abbiamo avuto una serata vivace o quant'altro, e soprattutto anticipare il sonno attraverso questi brevi periodi di riposo, 10-12 minuti al massimo complessivamente, che ci consentono proprio di recuperare il tono cerebrale. Fabrizio ci chiama da Pistoia all'824-0024. Buongiorno Fabrizio, come sta? Buongiorno, abbastanza bene, grazie. Mi seguo sempre, faccio tanti complimenti, mi seguo specialmente il venerdì perché sono abbastanza sportivo, diciamo, e allora il dottor Confalonieri mi dà sempre dei consigli ottimi. Magnifico, magnifico. Allora, vediamo se anche questa volta il dottor Confalonieri non la delude. Mi raccomando, faccio una domanda molto difficile. Sì, no, volevo dire, innanzitutto che sto tutto il giorno in macchina, che sono un rappresentante, quindi il trucco mio è che quando scendo da una visita dell'ASL, invece di fare 10 metri a piedi la prendo un po' più lunga e faccio diversi metri a piedi, così mi sgrancio meglio le gambe. Sì. Il problema mio, siccome corro a piedi e non ho tempo, volevo chiedere al tuo compagnoniere, correre di notte, cioè correre la sera quando uno torna a casa, fa male oppure c'è qualche controindicazione? Cioè ma lei che corre di notte come sta? Scusi Fabrizio. Bene, perfettamente. Secondo me la risposta se l'è già data da sola. No, ma no, perché se c'è qualcuno che dice che la sera le piante buttano anidride carbonica, non ossigeno, insomma, che non si respira aria. Io ho sentito anche che fare attività fisica, l'abbiamo detto tante volte, nelle ore serali, tarde, può magari in qualche modo influire negativamente sul sonno. Dottor Confalonieri, tocca a lei. Molto rapidamente, rispetto al consiglio del nostro ascoltatore di camminare un po' quando ci si ferma, è fondamentale di fare infatti un consiglio molto pratico è: andate in autogrill, cercate il posto più lontano possibile dalla stazione. Questo vi obbligherà a camminare più a lungo e ridurrà molto gli effetti negativi della permanenza in macchina. Rispetto all'attività sportiva, indubbiamente sarebbe preferibile farlo al mattino, prima di partire. Questo sia per attivarci in modo ottimale per il viaggio in macchina, sia per evitare di sovraccaricare l'organismo dopo una lunga permanenza in auto, quindi con un organismo più predisposto a quelle che sono le patologie da sovraccarico cronico, e infine per una migliore qualità del sonno. Però la regola base è che se uno sta bene correndo la sera non deve cambiare le proprie abitudini in funzione di quella che è una teoria generale. Siamo tornati, oggi parliamo, ci rivolgiamo in modo particolare ai nostri ascoltatori e ai nostri amici che passano molte ore in macchina e vogliamo tenerli in forma. Suggerimenti naturalmente che ci daranno i nostri esperti, il nostro dottor Confalonieri è già qua pronto, ma soprattutto che dovrebbero e ci piacerebbe arrivassero da voi, e quindi chiamateci 824 0024 o scriveteci, lo già state facendo in tanti, 349 238 66. Io vorrei però aprire una piccola parentesi su una buona notizia che arriva dalla ricerca. I ricercatori del San Raffaele hanno scoperto il punto debole, chiamiamolo così, il tallone d'Achille del mieloma multiplo, e questo permetterà sicuramente l'apertura di nuovi scenari di terapia. In linea con noi abbiamo il dottor Simone Cenci, ricercatore presso l'Istituto Scientifico Universitario del San Raffaele e coordinatore dello studio. Dottore, benvenuto e complimenti. Grazie, buongiorno. Allora, che cosa avete scoperto? Ho detto il punto debole, insomma, ma... È proprio così. La scoperta consiste nel fatto che praticamente abbiamo osservato che questo tumore, che ancora è per certi versi molto misterioso, il mieloma multiplo, soffre di un particolare tipo di stress. Uno stress dovuto proprio all'accumulo di proteine di scarto, potremmo dire, di proteine non digerite. Sì. E questo stress può essere in qualche modo sfruttato per rendere il tumore più sensibile a terapie che sono già disponibili o per disegnare in futuro, lo speriamo presto, nuove terapie contro questa malattia. Quindi questo tumore che ormai state definendo sempre di più e lo state conoscendo, è come una specie di animale malato, un animale difettoso, vero dottore? Sì, per certi versi molti oncologi ritengono che i tumori sono spesso soffrono i vari problemi, sono per esempio spesso cellule più stressate delle cellule normali, e questo dobbiamo imparare a sfruttarlo a nostro vantaggio. Sì, e lo state facendo, quindi questa ricerca è sicuramente un passo avanti, e da qui si potrebbe iniziare a? Beh, diciamo che si potrebbe imparare a manipolare questo tipo di stress e disegnare, inventarsi nuove terapie da testare su modelli cellulari animali e poi speriamo presto in pazienti veri e propri. Per renderle sempre più stressate queste cellule, le fate morire dallo stress? Esattamente, ucciderle con lo stress, questa è l'idea. Uno stress che in questo caso può far bene, cioè che possiamo sfruttare per disegnare terapie efficaci. Dottore, io la ringrazio. Complimenti, la saluto, buon lavoro, buona ricerca. Grazie a voi. Buona giornata anche. Grazie a tutti, buongiorno. Ci sono tantissimi messaggi, si intrecciano i messaggi sull'elisir d'amore con i messaggi della macchina, alcuni riescono anche a unire le due, donne, i due aspetti, motori, donne e motori. Allora torniamo a noi, abbiamo Luigi che ci chiama da Brescia, 824 0024, vediamo se ha una domanda o un suggerimento. Luigi, buongiorno che al dottore. No, ma la mia c'era una domanda e anche un suggerimento. Io faccio 120.000 km all'anno in macchina, quindi sono sempre in macchina. Sì. Però non, per nessun motivo al mondo perdo la mia ora di corsa al giorno, che la sabato e la domenica trasformo in due ore. E, io volevo solo chiedere al dottore, ho un'alimentazione molto curata, anche prediligo pesce crudo, ho eliminato la carne, non bevo alcolici, non fumo, eccetera. Però volevo chiedere al dottore, per avere un riscontro sempre preciso sui valori o se dovesse esserci qualcosa che per caso non dovesse andare, ogni quanto dovrei ripetere le analisi? Poi un'ultima cosa, io sono molto goloso di frutta e verdura cotta, ma non riesco a mangiarla perché mi crea dei problemi a livello intestinale che non, fino ad oggi non sono riuscito a risolvere. Volevo un consiglio dal dottore. Pensavo che lei dicesse sono goloso di saccheri, allora lì invitava il dottor Confalonieri, ma di frutta e verdura che in effetti può dare questi problemi, no? Sì, abbiamo parlato anche col dottor Berrino. Sì, allora, per Luigi. Beh, direi che un suggerimento importante contenuto fra quanto ci ha raccontato Luigi è questo di privilegiare l'attività durante il weekend, che già può essere fondamentale per compensare per esempio gli effetti sul sovrappeso dello stare molto in macchina, perché un altro degli effetti negativi legati all'utilizzo frequente dell'auto è che favorisce indubbiamente l'immobilità, la tendenza al sovrappeso. Oltretutto magari si compensa anche mangiando fuori, mangiando in modo disordinato, e questo favorisce ulteriormente l'aumento di peso. Un'attività fisica regolare tutti i giorni rappresenta ovviamente l'ideale, ma anche soltanto il weekend funziona perfettamente per tenere sotto controllo il peso corporeo e la salute. Dal punto di vista degli esami, se non ci sono obiettivi agonistici particolari, quindi se il nostro atleta non fa anche delle gare, per esempio di corsa, è sicuramente sufficiente farlo una volta all'anno. Allora, volevo leggerle qualche suggerimento che arriva dai nostri ascoltatori al 349-238-6666. Passo tante ore alla guida e trovo grande sollievo da quando utilizzo ogni sera la panca per inversione appeso per i piedi, Stefano. Sì, diciamo che uno scarico della colonna... Mi fa un po' impressione. Avrà una moglie, Stefano, che lo guarda e arriva... Non lo so, magari lei che lo appende. Allora, diciamo che comunque uno scarico della colonna, eventualmente anche attraverso l'ausilio di questi strumenti come la panca per inversione, può essere utile, perché si fa qualcosa che è antagonista rispetto al sovraccarico cui siamo stati sottoposti tutto il giorno con la seduta in auto. Gianluca dall'Aquila ci racconta: viaggio molto per tenermi sveglio la sera tardi, tengo sempre il finestrino aperto per far entrare un po' di più l'aria fresca. Gianluca, anche questo, come la panca, mi mette un po' di... Dottor Confalonieri, forse è meglio no, questo non mettersi è... alla guida senza sonno. Beh, sì, per magari qualcuno è costretto a rientrare la sera ed è stanco, il finestrino è qualcosa che utilizziamo magari saltuariamente in tanti, sicuramente non è l'ideale, anche perché comporta un sovraccarico a livello muscolare, in particolare della cervicale, non indifferente. Direi anche qui meglio delle soste frequenti, meglio... Per esempio, bere con regolarità, cioè porsi l'obiettivo ogni 4-5 minuti di bere un sorso d'acqua, ci dà un compito che mantiene attivato il cervello, e oltretutto una corretta idratazione è fondamentale per il benessere e per l'equilibrio globale. C'è Alessandro che ci aspetta da Milano, 824-0024. Alessandro, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Anche lei divora chilometri e chilometri? Non in modo eccessivo, comunque diciamo, però insomma in macchina ci sta. Del giorno d'oggi penso che è parecchio per tutti aumentato rispetto a quando ero neopatentato 30 anni fa, insomma io ho circa 50 anni. Senta Alessandro, lei cosa fa? Sì. Prego? Che fa per tenersi in forma? Ma innanzitutto, appunto, come molti hanno già detto, tendo a privilegiare, non so, un parcheggio anche in zone periferiche, senza dover tribulare tra l'altro tanto ad affannarmi a cercare dei parcheggi in centro e poi fare dei pezzi a piedi, sì, dove possibile. Un altro escamotage che ho usato specialmente nella stagione bella, ma anche nella brutta se con abbigliamento adeguato, è di portarsi una bicicletta al seguito, ad esempio su una tratta molto lunga tipo Milano-Torino, sì, queste grosse città, non i piccoli centri di periferia dove poi è difficoltoso parcheggiare, entrare in centro. È molto utile, a meno che uno deve portarsi qualcosa di particolare, non so, un televisore o cose del genere. No, però va bene, certo, se uno... Chiaramente, però non capita raramente. Quindi lei si sposta in macchina, poi scende con la sua bicicletta e va. Esatto, tolgo la bicicletta dall'area periferica, mi reco in centro in bicicletta e viceversa. Quindi... Magnifico, e lei arriva puntuale, elegante. No. Grazie Alessandro, questo è un bel suggerimento, ma sentiamo che cosa ci suggerisce o vuole chiederci. Grazia che ci chiama da Firenze. Grazia, buongiorno. Buongiorno. Allora, io volevo chiedere un'informazione. Prima di tutto, preciso, ho 50 anni, vivo praticamente dentro l'automobile, divoro chilometri e sono più di 20 anni che faccio questa vita. Faccio circa 80-100 mila chilometri l'anno e sono molto provata da questo tipo di vita. Ecco, la cosa che volevo chiedere è questa. Il problema più grande che ho, oltre a molti altri, perché diventa una vita un attimino innaturale vivere dentro un'automobile, è la schiena. Io ho tantissimi dolore alla schiena e adesso con il passare degli anni è il fastidio più grande che ho. L'unica soluzione che ho trovato, e volevo chiedere al dottore se è una soluzione secondo lui accettabile, è quella di mettere un piccolo cuscino nella parte bassa della schiena schiena, fra lo schienale e la mia schiena, e con quello ho un leggero sollievo, però è una cosa minimale, perché in questi mesi invernali è veramente molto molto difficoltoso. Grazie, sicuramente la sua domanda, il suo problema è un problema comune, poi forse rafforzando la muscolatura poi con degli esercizi, adottando delle posizioni corrette, si può in qualche modo alleviare almeno questo sintomo, prevenire eventuali complicanze. Ma dottor Confalonieri? Beh, diciamo che è proprio il punto critico, la schiena a diversi livelli, per qualcuno a livello lombare, per qualcuno a livello dorsale, per qualcun altro a livello cervicale. Accorgimenti: innanzitutto rafforzare tutta la muscolatura posturale che trascuriamo molto spesso, quindi parlo in questo caso di addominali, glutei e lombari paravertebrali in particolare, perché questo sostiene la colonna, riduce il sovraccarico e quindi il dolore. Poi cambiare posizione, è vero che in teoria c'è una posizione ideale, però anche cambiare leggermente posizione in funzione del fatto che si guidi in città, si guidi in campagna, si guidi in autostrada, e quindi ridurre il tempo di carico specifico sulla nostra colonna può essere importante, un po' quello che la nostra ascoltatrice faceva mettendo questo cuscino a livello lombare, e poi eventualmente fare un pochino di fisioterapia, un pochino di massaggi. Ci sono dei punti specifici, esatto, magari da massaggiare, affidandosi toccare a uno specialista. Proprio la nostra colonna, per permetterle di scaricarsi e di assorbire gli effetti del sovraccarico indotto dall'auto. E noi lo specialista ce l'abbiamo, perché ci ha raggiunto il professor Fulvio Pallombini, reumatologo e docente in fisioterapia all'Università La Sapienza di Roma, Ospedale Sant'Andrea, esperto anche in shiatsu. Professor Pallombini, si prepari. Buongiorno a tutti, buongiorno. Buongiorno professore, faccia anche lei un po' di riscaldamento, perché lei deve darci un po' di consigli per evitare tutti quei dolori e anche magari per aumentare la concentrazione quando siamo stanchi, dobbiamo affrontare gioco forza un lungo viaggio, magari siamo al volante di notte. Professor Pallombini, siamo tutte orecchie. Allora, tante volte le ore in macchina ci costringono a delle posizioni, abbiamo imparato a come sederci in macchina, le posizioni, ma insomma, alla fine, come ci ricordava Cinzia, chi passa una vita in macchina, gioco forza, fa una vita un po' innaturale. I dolori si sentono e io chiederei anche a Maria dalla provincia di Bari, vediamo se ha bisogno anche lei del dottor Pallombini. Maria, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Maria. Buongiorno Maria. Buongiorno, chiedo scusa, anch'io come l'ascoltatrice precedente sono un agente, trascorro molto tempo in macchina e accuso dei forti dolori alla spalla. Nonostante ciò, cioè io comunque faccio regolarmente attività fisica per 2 o 3 giorni a settimana. Sì. Di recente mi sono rivolta a una massaggiatrice, quindi sto facendo dei massaggi di fisioterapia, perché negli ultimi anni mi sono riempita di contratture. Sì. Cosa posso fare? Maria, ma lei lei si siede bene, come ci raccontava Roberto Rasia, mette il piede, misura la frizione, il polso? Beh, cioè, non proprio. Va bene, non proprio da manuale, ma quasi da manualino. Allora, professor Pallombini, sì, allora ci sono Cinzia e Maria hanno bisogno di lei, così prendiamo appunti. E poi volevo chiederle un consiglio per i miei amici taxisti che rimangono ore e ore in macchina, mi stanno già scrivendo, li ringrazio, perché quando prendo un taxi sentono sempre Radio 24 e io li bacerei. Va bene, ma a parte questo, Maria e Cinzia, dolori. Pronto, dunque ci sono dei punti fondamentali nel corpo, soprattutto nel collo. Sicuramente uno dei punti più importanti che va stimolato con una certa intensità, quando dico con una certa intensità, significa una pressione forte, quasi dolorosa, che però deve rimanere, essere sempre un po' piacevole. Questa è la regola fondamentale dello shiatsu, l'abbiamo detto molte volte anche in questa trasmissione, bisogna cercare di essere intensi ma piacevoli, questo è il trucco. Alcuni punti fondamentali, forse il punto più importante in assoluto, e consiglio a tutti gli amici automobilisti, è proprio sotto l'orecchio, sotto la mastoide, sotto l'orecchio c'è un osso importantissimo, lì si attacca un muscolo fondamentale, molti muscoli del collo. Sì. Se noi con le 4 dita, con i 4 polpastrelli delle 4 dita, escluso il pollice, mettiamo i polpastrelli sotto quest'osso e premiamo con una buona intensità, non dico di sentire dolore, ma deve essere una sensazione molto particolare. Diciamo che i nostri pazienti ci dicono: ci fa male ma mi piace. Ecco, dobbiamo arrivare a quella sensazione. Sì, che non sono masochisti, però. come dicono... non sono masochisti. No, è una sensazione molto particolare, una sensazione dovuta a tutto un processo neurofisiologico importante, che adesso non siamo qui. Quindi questo è un punto, sicuramente Guardi, è il punto forse più importante del corpo per ottenere dei risultati immediati, è di benessere, di sensazione di sollievo, quasi di miglioramento della visione quasi. Perché i muscoli quando si contraggono alterano una serie di sensazioni, tra cui anche la vista, anche l'udito, si altera tutto quanto. E invece per questi dolori che si avvertono alla schiena o alla spalla, come nel caso delle nostre due amiche, che cosa si fa? Vale sempre la regola della pressione? Abbiamo un pronto soccorso shiatsu? La pressione è veramente una tecnica terapeutica, diciamo, innovativa, importante. Veramente sta dando dei risultati magnifici, straordinari sul mal di schiena, su problematiche importanti anche come le ernie cervicali. Una tecnica carina, simpatica, è di mettere la mano destra sopra la spalla sinistra, fino a dove si arriva, esattamente sul trapezio, cioè in quel punto che sta tra la spalla e il collo. Dottor Confalonieri, provi un po' anche lei, su, perché lei va in macchina, così approfittiamo, già che ce l'abbiamo qui, sfruttiamolo, sì, con ci siamo. Con le quattro dita, proprio premiamo con forza in quel punto, e poi da soli si sa benissimo fino a quanto si può premere, sì. La persona si rende conto di quando la pressione diventa piacevole, e lì bisogna insistere un pochino, rimanere 5, 10, 15 secondi di pressione, e poi alternare, e fare delle pressioni ripetute 7, 8, 10, 20 volte, insomma, vi accorgerete che immediatamente il muscolo si allenta. Sente, invece, problemi alla schiena, ad esempio Cinzia, ma sono tanti gli ascoltatori che mi dicono: faccio viaggi lunghi e per alleviare il dolore uso il cuscino nella parte lombare. Lei che dice che è un esperto, che è docente in fisioterapia e quindi queste cose le sa, il cuscino lo mettiamo o no? Guardi, io sinceramente non sono molto d'accordo su supporti dietro la colonna vertebrale, lo dico in maniera... sono molto d'accordo sulla posizione seduta, è importante che sia la persona sia verticale, la colonna vertebrale verticale, ben appoggiata, più possibile il contatto, diciamo, di tutta la colonna vertebrale al sedile. E una cosa molto importante, forse è stato già detto, che le ginocchia non siano mai troppo basse rispetto alle anche. Ci deve essere sempre un ginocchio abbastanza alto, in modo che si allenta un muscolo importantissimo, che è il muscolo psoas, che è un muscolo flessore dell'anca, che si attacca sul tratto lombare. Io sinceramente... Senta, però allora, se il cuscino ce lo toglie, ci dica l'esercizio, una pressione magica per farci passare quel... non dico dolore alla schiena, è troppo, indolenzimento. La mano appoggiata sulla cresta iliaca, non sapete qual è la cresta iliaca, è il bacino, è le quattro dita appoggiate sulla cresta iliaca, il pollice che si allunga verso la colonna vertebrale, sì. Sentirete una fossettina, una piccola fossetta muscolare, e in quel punto premete con intensità, la stessa regola che dicevamo prima, una pressione intensa che riesca a evocare una sensazione dolorosa ma sopportabile, ma piacevole. Quello è il trucco. Grazie professor Palombini. Io ho visto già che il dottor Confalonieri ha capito, mi sembra che gli esercizi li abbia anche eseguiti bene. Sì, in parte li eseguivo già, perché Vabbè, già lei sa tutto. No, quello per la colonna lombare no, quello ecco, a livello del trapezio questo ci mancava, sì, questo ci mancava. Professor Palombini, grazie, andremo di shiatsu, buona giornata. Grazie a voi, auguri. Allora, abbiamo parlato di ore e ore passate in macchina, vogliamo un po' rilassarci, tra l'altro questo fine settimana, almeno qua, previsto il brutto. Sì. E allora ritorna, era già tornata di moda negli Stati Uniti, poi di nuovo l'avevano abbandonato un po' come si fa con le mode, adesso ritorna in auge il tricotage, lavorare ai ferri, sferruzzare, lavorare a maglia, sembra che funzioni, ne parlano anche alcune ricerche, noi ne parliamo con la dottoressa Mencaglia, psicologa di Humanitas, buongiorno. Buongiorno. Abbiamo un minutino per raccontare i vantaggi di sferruzzare. Rilassa chi, dottoressa Mencaglia? Non tutti, ma per chi potrebbe essere una soluzione? Potrebbe essere una soluzione per tutte quelle persone che riescono a stare bene da sole, bene in tranquillità, che si rilassano cercando un ambiente tranquillo e facendo cose su cui magari possono concentrarsi un po' di più. Quindi per portare la mente altrove, ma nello stesso tempo per impegnarsi, perché dottor Confalonieri, non si va in automatico, bisogna contare i punti, lei lo sa. Sì, io non faccio la maglia, però per esempio mia moglie, che è una collega della dottoressa Mencaglia, utilizza questo strumento e lo consiglia anche a tante amiche con dei buoni risultati. Allora, di solito, dottoressa Mencaglia, non tutte le persone, abbiamo detto, sono portate per la maglia, non tutte le persone sferruzzando si rilassano, ma comunque abbiamo capito che a tenere occupate le mani, e questo gli psicologi hanno fatto su questo, hanno fatto fiorfiori di ricerche, la mente un po' vola, si almeno si sta dagli affanni quotidiani. Allora, per chi con i ferri non vuole avere a che fare, che cosa consigliamo? Ad esempio, in questo weekend un po' freddino e magari non andiamo gite fuori porte, le rimandiamo, che possiamo fare? La cucina, vero dottoressa? Assolutamente che sì, dice? In cucina ci si può trovare discretamente, e oggi poi tutti i settimanali femminili e non hanno delle ricette abbastanza semplici, per cui sì, la cucina può essere un esempio, o un minimo di giardinaggio, adesso insomma bisogna cercare anche di preparare le piante per la primavera, quindi tenete occupate le mani e la mente vola. Dottoressa Mencaglia, grazie. Arrivederci. Dottor Confalonieri, al prossimo venerdì. Grazie, a risentirci. Noi ci sentiamo domani in questa casa, non è un albergo, buona guida e tenetevi in forma. Un saluto da Nicoletta Carbone.